sole batte forte, sana le ferite. Da bambini volevamo solo andare via, con le scarpe bucate e le facce pulite. Coloravamo i muri della ferrovia. Vengo da dove il mare scende dai palazzi, ma parlare di futuro resta un'utopia. Non serve a niente se ti incazzi, resto in strada coi ragazzi sognando la lotteria. Ma cos'è sta nostalgia che mi piglia, non so. Quando passano in TV un vecchio film di Totò, sembra che parli di me, sembra che parli di noi. Voglio tornare a casa mia, ormai ci manco da un po'. Giro un mondo e cerco sempre a casa mia. Roma serve poche liete, basta pure non soffrì. Si già da prometta, ancora da fida. Dici ma che paura ci ho provato. Ma piace quando mi stringe, la notte se va se ne finge. Mi hai fatto bella sta casa e senza mai ci fa caso. Mi hai cagnato una vita. Non se ne va, non se ne va. Ho ricordo le strade, un file solo che tratta. Fa scecatura pazza. Nonostante i problemi del nostro presente, amo le facce della gente, sempre contente. Non la cambierei per niente, per nulla al mondo. Non ho pensato di tradirla nemmeno un secondo. Ma te ne accorgi solamente quando prendi un treno per andare in qualche posto dove manca il cielo. Ma capisci tutto quello che conta davvero quando ti senti zero, ti chiamano straniero. Mamma ti giuro mai più, ora non soffrirai più. Sto su un aereo che parte, che mi porterà giù. Dove sto andando chissà, da dove vengo lo so. Voglio tornare a casa mia, ormai ci manco da un po'. Non se ne va, non se ne va. Ho ricordo le strade, un file solo che tratta. Fa scecatura pazza. Non se ne va, non se ne va. Sento ancora mia mamma, non va con la cagliamba. Vorrei a mangiare. Giro un mondo e cerco sempre a casa mia. Roma serve poco e niente, per sta pure non soffrì. Si già da prometta, luna te fida. Mi cresci ma che paura ci prova. Ma piace quando mi stringe, a notte se va se ne figlia. Tu hai fatto bella sta casa e senza mai ci fa caso. Mi hai cagnato una vita. Non se ne va, non se ne va. Ho ricordo le strade, un file solo che tratta. Fa scecatura pazza. Non se ne va, non se ne va. Sento ancora mia mamma, roba con la gagliamba. Curro viene a mangiare. Giro il mondo e cerco sempre a casa mia. Roma serve poco e niente, per sapore non soffrì. Se già te prometta l'uno non te fida. Le crisci ma che paura ci ha provato.